Va bene, allora questa è la prima lezione del corso di comunicazione multimediale. Allora, prima parliamo di questo nostro amico. Questo nostro amico ci consente, insomma, diciamo, registrare tutte le lezioni e di metterle su di un sito, che è quello che uso da anni, che si chiama archive.org, archive, archive. Se ci fosse una lavagnetta, lo scriviamo anche sulla lavagnetta. Allora, questo sito è un sito open source in cui ci sono un sacco di robe, video, audio, eccetera. Voi cercate la sezione community audio oppure digitate Caronia, vi escono fuori tutte. Su questo sito ci sono già i miei corsi, sia degli ultimi del triennio, finché ho fatto il triennio, da 2 anni non lo faccio, da 3 anni non lo faccio più, sia tutti quelli del biennio, tutti o quasi tutti quelli del biennio, quindi voi cercate bene l'anno, insomma. Comunque io registrerò queste lezioni e mano a mano le metterò su questo sito, in modo che voi dalla settimana dopo avete, dovrebbe essere in real time, insomma, in tempo quasi reale, quasi, lievemente differito di qualche giorno, se c'ho molto da fare possono anche essere 7 giorni, non ve la prendete, insomma, comunque, diciamo, tendenzialmente entro 2 o 3 giorni ci dovrebbe essere la registrazione, quindi chi non può venire perché ha i cazzi fuori, perché gli sta male la nonna, facendo le corna, perché ha un appuntamento davanti esattamente fra le 3 e le 5 del pomeriggio del lunedì, che può sempre succedere, perché non c'ho da rivenire, perché c'ha i cazzi suoi, perché c'ha tutta la rotta, il sangue si può recuperare. La lezione, naturalmente, face to face è più semplice, perché voi potete interrompermi, non fa quasi mai nessuno, ma insomma potete chiedere quando si è qua, è tutta un'altra cosa. Allora, questo è il primo punto. Secondo punto, parliamo un po' del corso, che tipo di corso è questo. Dunque, voi sapete che io ho fatto questo corso anche da prima che fosse aperto questo nuovo indirizzo di NetArt, poi con l'apertura dall'anno scorso in maniera un po' bislacca, da quest'anno in maniera pare più stabile, insomma, si apre questo, oltre ai 2 indirizzi tradizionali che ci sono, di arti performative e di arti cinema e video, cosiddette, c'è pure questo corso di NetArt, di cui il mio insegnamento dovrebbe essere uno dei cardini. Allora, qui io non so cosa dirvi, sono qui, certo, non so se è un equivoco, se è una cosa. Allora, il corso si chiama comunicazione multimediale, che io so che questo termine a voi vi evoca già tutto un mondo, dice, come multimediale, questo ci insegnerà come si fanno i siti internet, come si fanno le cose. Allora, la NetArt non è questo, la NetArt non è, come questo forse già lo sapete, però ve lo ridico così, non è come, non, cioè per fare quello non occorre una laurea specialistica in un'Accademia di Belle Arti né in nessun altro posto, perché a fare un sito si impara, quanto si impara a fare un sito? Pochi giorni. 15 giorni, diciamo, un mese, va proprio per i più tonti un mese. Uno sta lì un mese e impara a fare un sito. Certo, non farà dei gran siti all'inizio, dopodiché se ha una bella testa, ci sono un sacco di persone che hanno una bella testa, o se ha una brutta testa ma una testa furba, entro i pochi mesi successivi sarà in grado di fare dei siti. Ma fare i siti non vuol dire un cazzo. Dietro il termine NetArt ci sta intanto ormai una si può dire una, diciamo, tradizione di produzione di processi, di prodotti e di eventi per la rete, che non è solo il web, e che non vuol dire solo stare davanti ad un computer, perché ovviamente oggi stare davanti ad un computer è la cosa fondamentale per qualsiasi attività uno faccia, insomma. anche se vende formaggio o caciottelle, insomma, senza il computer cosa volete fare. Ma insomma, dietro c'è tutta un'altra roba. Però, anche qui io non vi racconterò che cosa è la NetArt, né come si fa la NetArt, anche perché intanto io non lo so, ma forse non lo sa come nessuno come fa la NetArt. Voi forse sapete che imperversano da una ventina d'anni a questa parte, in tutto il mondo occidentale, dei corsi molto buffi e molto divertenti, secondo me, chiamati di scrittura creativa. Sono uno dei tanti esempi delle truffe che la contemporaneità rende possibili, prevede, eccetera, perché ci si insegnano delle cose che è impossibile insegnare. Io credo che nulla sia obiettivamente insegnabile, questo voi già so che vi vedo molto, diciamo, no, che cazzo stiamo a fare? Perché è una relazione asimmetrica, nessuno può insegnare nulla, ma tutti possono imparare, quindi voi siete qua per imparare. Ma io non sono in grado di insegnarvi nulla, non sono in grado di insegnarvi nulla nel senso che non sono in grado di trasmettere tali e quali le cose che ho in testa io nelle vostre teste. Se fosse possibile fare una roba del genere, intanto vuol dire che ci sarebbe la telepatia. Molto, molto probabilmente. Secondariamente ciò significa che ci sarebbe la possibilità di, in qualche maniera, di condizionare gli esseri umani in maniera pressoché totale, se fosse possibile insegnare, cioè se fosse possibile trasmettere tali e quali le cose che io ho in testa nelle vostre teste singolarmente e collettivamente, e probabilmente saremmo dentro ad un regime, anche se non ne siamo consapevoli, di tipo totalmente fascista, autoritario, razzista e tutte le altre parolacce che gli volete aggiungere e mettere insieme. Per fortuna non è così. Per fortuna non si può insegnare nulla. Per fortuna tutto ciò che io vi dirò sarà filtrato. Certamente i suoni, sarà difficile equivocare sui suoni che io emetto, anche se si può equivocare anche su quelli, e capiterà che io dica sragione e voi capiate stagione, come qualsiasi correttore automatico del cazzo di questi computer farà. Azzardatevi a scrivere sragione su un qualunque word processor in cui non abbiate disattivato, come saggiamente dovreste fare, il correttore automatico, e sragione non comparirà mai, e voi comparirà sempre stagione. Se voi mettete il mio nome, il mio cognome, Caronia, il mio cognome non comparirà mai, verrà immediatamente sostituito da un orrendo sostantivo che è quello di Baronia, sempre con l'accento sulla I, però grazie. Allora io per questo non solo per la ragione, insomma, ero un po' scocciato di questa cosa, ma io l'avevo già disattivato prima di sapere che il mio cognome sarebbe stato automaticamente corretto per un correttore che abbia la lingua italiana. Certo, se voi impostate l'inglese, caro mio, vi rimane uguale, che cazzo di parola, non si capisce. Ma siccome invece c'è una parola della lingua italiana che corrisponde al mio cognome con una sola lettera di differenza, qualunque correttore automatico, forse credo che gli ultimi facciano anche con due lettere di differenza, ma con una si scatenano i correttori automatici, non fanno altra parte, poveri tristi, anche loro hanno una vita ben triste, dategli la possibilità di giocherellare come vogliono con i sostantivi inesistenti e con i cognomi complicati. Allora, torniamo a noi. Quindi io non vi insegnerò nulla da questo punto di vista, cioè non vi trasmetterò nessun... cioè tutto ciò che voi, come in qualsiasi rapporto, si instaura tra esseri umani, tutto ciò che io vi metterò a vostra disposizione, parlando, dicendovi delle cose, eccetera, voi lo filtrerete con la vostra testolina. Testolina, testolona, testina, testona, testaccia, testero, quello che ognuno ha, quello che ha. Ma in tutti i casi ciò che io dico non rimarrà quando si quando viene comunicato, quando viene messo in comune, cosa si mette in comune quando si parla? Non si mettono mai in comune le intenzioni, la storia, i presupposti e neanche le implicazioni possibili del parlante. Non è questo che si mette in comune. Questo fa parte di quello che gli antichi greci chiamavano Ideos Cosmos, cioè il mondo, il cosmo, dell'idios, non vuol dire idiota, della singola persona, Idiota è uno che non sa fare altro che trafficare con se stesso, perché questo si chiama, diciamo idiota. Ma... Allora, l'Idios Cosmos è l'ambito delle attività mentali, ma anche comportamentali degli esseri umani che rimangono proprie di ogni singolo essere umano. No? Ma certamente non... Se ci fosse solo l'Idios Cosmos, io non potrei essere qui, non potrei parlare, voi non potreste ascoltare, non potreste essere a causa, è chiaro che... Però l'Idios Cosmos c'è. Poi c'è un'altra cosa invece, che i greci chiamavano Koinos Cosmos, e che è il mondo della koiné, della comunità, della condivisione. È ovvio che se non ci fosse il Koinos Cosmos non ci potrebbe essere comunicazione fra le persone, però non tutto, però c'è una parte, allora, questi due ambiti sono parzialmente sovrapponibili, grazie al caso, se no saremmo veramente messi bene. Però non sono totalmente sovrapponibili, Quindi, molte volte chi insegna, questo lo so per esperienza personale, è convinto di essere in grado di trasferire ad altri esseri umani pressoché tutto, o comunque la gran parte, o comunque la cosa fondamentale del proprio Idios Cosmos. Certo, questo sarebbe, questo sarebbe bello, vi ho già suggerito che, come dire, non sarebbe poi bellissimo. Pericoloso. Cosa? Pericoloso. Ma pericoloso, cazzo. Cioè, sarebbe intanto abominevole, secondo me. Cioè, non avrebbe proprio... certo, ripeto, ci deve essere qualche cosa che voi... Però questo qualche cosa, la singola soggettività, che in questo caso siete voi, la filtra, la cambia, la digerisce in qualche modo, anche quando è convinto di no, anche quando è convinto, anche uno bravissimo che prendesse appunti e dicesse tutto quello che io dico, parola per parola, eccetera, ma in realtà, in questa operazione che uno può fare scrivendo a penna, scrivendo sul computer, anche solo ascoltando e lasciando che la propria mente, la propria memoria filtri da sola quello che si rivelerà alla fine di queste 2 ore e mezzo essere rilevante per voi, sarà rilevante per ciascuno di voi, e se tutti voi prendeste gli appunti e poi andaste a confrontare gli appunti, vedreste che questi appunti hanno qualcosa in comune, certo, ma hanno molto che non è in comune, e sono i vostri idioi cosmoi, sono i vostri mondi personali, sono le vostre attitudini personali che entrano in relazione con il mio Idios Cosmos, con il mio mondo individuale, e dal quale voi costruite, voi che state voi che imparate, costruite esattamente come chi vi parla, costruite in un modo diverso, ma è una costruzione che voi fate, non c'è nessun guardare. Questo mi rendo conto che a alcuni di voi possa... possa essere un po' disperante, dice cazzo, io ero venuto qua per imparare, non per lavorare io, che cazzo, deve essere già lui che lavora, lo pagano poco, ma lo pagano, per lavorare. Va bene, a voi non vi pagano, però è qualcosa che voi fate comunque, che voi lo vogliate o no. Voi fate un, diciamo, lavoro, fate una elaborazione individuale su quello che uno, diciamo, vi dice. Va bene, punto a capo. Questa cosa magari ogni tanto ve la ripeterò, perché probabilmente a voi sembra di averla comunque capita adesso, ma siccome è una cosa, come si dice, controintuitiva, che va contro quello che... 5, 3, 8, 5, 13 anni più 3, 16 anni di scuola mi hanno sinora insegnato, grosso modo. C'è stato un attentato, per questo è così pericolosa la scuola, è così... Cioè, pericolosa è anche così, diciamo, deprimente, perché è fatta di persone che pensano di poterli soggiogare con la parola, con la... Invece altrimenti non si soggioga nessuno, questo è ovvio. Però anche voi, cioè anche, però questa impostazione chiaramente prevede che il vostro atteggiamento sia consapevolmente più attivo. Questo non vuol dire poi potete interrompermi o no, fare le domande o no, questo conta, fino, se sconta, se uno vuole fare le fame, insomma non è quello che... Cioè, questo lavoro in gran parte accade silenziosamente dietro la parete ossea, dietro ogni parete ossea di tutte le vostre fronti, dietro, dentro il quale ci sta questo aggeggino che più o meno comporta lo stesso numero di neuroni che comporta nel mio, anzi nel caso vostro ne comporta sicuramente di più, perché io ho già cominciato a perderli, io come tutte le persone che hanno passato i 25-30 anni ho meno neuroni di voi, perché i neuroni sono, se non proprio totalmente ingenerabili ex novo, si rigenerano a un tasso molto molto inferiore a quello di altre cellule, quindi i neuroni di una persona di 68 anni come sono io sono molti meno di quelli che avete voi, che mediamente credo nessuno di voi abbia ancora raggiunto i 25, quindi o se l'avete raggiunto avete superato da poco di poco, e quindi avete ancora più. Naturalmente questo non vuol dire nulla, perché in realtà io credo di avere all'incirca dai un centinaio di volte un numero di sinapsi superiore alle vostre, per il semplice fatto che ho passato molti più anni di voi su questo pianeta, e quindi le sinapsi, cioè le connessioni tra un neurone e l'altro, che si creano nel corso della vita degli esseri umani, uno non nasce con le sinapsi già fatte, sono quelle che in gran parte ovviamente determinano come dire, la ricchezza mentale di una, come dire, persona. Poi certo, spesso quando si invecchia avere così tante sinapsi non è molto utile, anche perché queste poi se non vengono utilizzate in genere crepano, muoiono. Certamente però chi fa un lavoro come il mio insomma, diciamo, a parte quello che faccio in questa scuola, ma forse più di quello che faccio fuori di questa scuola, nel mio caso questo rischio è meno forte, perché tutto il mio lavoro e tutta la mia vita consiste semplicemente nell'utilizzare, nel tentare di collegare dei pezzi del mondo, e per pezzi del mondo che qualcuno non ha ancora collegato o che sono stati collegati in maniera diversa, e ovviamente per collegare dei pezzi del mondo non posso fare altro, siccome il mondo è come dire, immodificabile da parte mia, perlomeno da parte mia singola, non posso modificare il mondo io come singolo essere umano. Collettivamente qualcosina si può fare, ma insomma anche lì poi non è che bisogna esagerare, perché si può, qualcosa si può modificare, ma insomma quelle che si chiamano leggi, politica, queste cose qua insomma sono uno strato superficiale molto esile su di una distanza, su di una quantità di liquido o di solido, scegliete voi la metafora che preferite, molto più spessa e molto più densa di questa pellicolina superficiale che è modificabile più o meno coscientemente da noi, ma si modifica anche la cosa, però semplicemente non si modifica per effetto di attività consapevoli degli esseri umani, si modifica in gran parte per effetto, certamente anche per effetto umano, ma per effetto di quello che è la grande maggioranza della nostra attività mentale, che è un'attività inconsapevole, di cui noi non siamo consapevoli. Queste cose voi insomma, sapete già, perché le disse ormai più di un secolo fa, cominciò a dirle un signore austriaco con la barba, che aveva un tumore alla mandibola e quindi faceva largo uso di cocaina per lenire i suoi dolori, e che si chiamava Sigmund Freud. Non ho perso il filo, però devo solo decidere quale delle 7-8 vie che ho aperte imboccherò con le prossime parole. Allora, voi vi aspettate comunque che anche con queste specificazioni che io vi ho detto, e quindi voi non adesso supponiamo che siate tutti convinti di quello che vi ho detto, quindi supponiamo che tutti voi diciate bene, se Caronia non ci può insegnare nulla, ma noi potremmo imparare molto da lui, ma rispetto a che cosa? Cioè, a proposito di quali argomenti? Di quello che si chiama normalmente comunicazione multimediale. Invece Caronia non, oppure nettare, invece Caronia non vi spiegherà nulla di questo. Le mie lezioni di questo corso non saranno dedicate specificamente alla fenomenologia, cioè alla apparenza, alle modalità espressive del mondo cosiddetto multimediale. Apriamo un'altra piccola parentesi, che noi pensiamo a torto che sia una delle grandi invenzioni del tardo XX secolo. Comunicazione multimediale è una idiozia dal punto di vista idiozia, insomma. È una cosa banale, cioè la comunicazione è sempre stata multimediale. E adesso vedremo anche perché, insomma. Semplicemente la multimedialità, cioè l'utilizzare diversi mezzi di comunicazione o diverse, che non è la stessa cosa ma spesso è simile, o diverse modalità espressive, diversi strumenti espressivi, comunicazione ed espressione non sono la stessa cosa, però a volte hanno un po' in comune, ce l'hanno, questo è ovvio. Quindi la comunicazione multimediale c'è sempre stata, sono cambiati gli strumenti e le modalità per costruire questa comunicazione multimediale. Ovviamente uno strumento come il computer, cioè un elaboratore generale di informazioni che si basa su una piattaforma digitale, cioè sulla uniformazione di tutte le differenti modalità comunicative ed espressive, vengono tutte ricondotte a una base digitale, no? a un trattamento, diciamo, digitale, e quindi a un certo livello ci appaiono tutte uguali, perché hanno nel modo in cui sono tutti 0 e 1, sono tutte stringhe a 8, 16 o 32 bit dal punto di vista della loro organizzazione, diciamo, interna, e quindi naturalmente è chiaro che questo tipo di comunicazione multimediale è diverso da dalle comunicazioni multimediali precedenti. Ma adesso spero di convincervi rapidamente che non c'è mai stata una comunicazione tra gli esseri umani che non fosse multimediale. Per il semplice non fosse altro per il semplice fatto che noi disponiamo di differenti apparati sensoriali, di differenti modalità sensoriali per approcciare il mondo. La multimedialità della comunicazione umana sta nel fatto che noi possediamo un paio di occhi, un paio di orecchie, un naso, una pelle e alcuni pelini, alcune fibrisse dentro il naso, tutto quanto collegato con zone specifiche del cervello. Questa è la base di ogni comunicazione multimediale. I media differenti stanno già nel nostro corpo, non ci possiamo fare nulla, non possiamo pensare che ci sia una... se non probabilmente cioè l'unico, però anche questo potrebbe essere dubbio, insomma, l'unico ambito in cui si potrebbe dire c'è una comunicazione che non è multimediale è quel campo che si chiama della propriocezione, cioè della percezione di ciò che avviene dentro di noi e di come questo ciò che avviene dentro di noi regola o limita o arricchisce il nostro rapporto col mondo. Nella propriocezione è difficile capire, quando io, la cosa più semplice è il dolore, il dolore è qualcosa che si vede, si sente, non si vede, non si sente, oppure si può vedere, si può sentire, ma se ne vedono degli effetti, no? Non si può odorare, non si può toccare, anche se sono degli effetti tattili, ma quindi è una sorta di rapporto. Se io ho un dolore alla schiena, come ho, variabile da ormai una trentina, forse più, con una quarantina, quasi d'anni, una 40, forse no, facciamo 30, 30 comunque, da 30 a 30, sì, da 30 anni ce l'ho quasi sì. Più o meno costa, che si sposta, se ne va, fa delle robe, eccetera. Cioè, allora, quello è, quello cos'è? Quella forse non è una comunicazione multimediale tra il mio corpo e me, è una comunicazione monomediale o olistica o generale o inglobante, diversi media, ma tutte le volte che io voglio uscire dal mio corpo, anche tendenzialmente per entrare in relazione con altri corpi, automaticamente devo utilizzare queste porte, queste vie di uscita e di entrata, che sono quelle che si chiamano i sensi, che in realtà sono un bel po' più di 5, perché adesso avete visto che ne abbiamo già introdotto uno, c'è una sorta di senso interno che gli scienziati chiamano propriocezione, la percezione propria del proprio, di se stessi. Ma poi c'è un senso dello, si potrebbe dire c'è un senso dello spazio, ci sono vari, cioè la storia dei 5 sensi è un po'. Insomma, vabbè, comunque, va bene, però io non vi racconterò questo. Allora, perché? Perché sulla NetArt c'è già un corso ottimo, perfetto, bellissimo, fatto dal professor Domenico Quaranta, che è un giovane studioso che ha dedicato la propria vita, praticamente proprio quel po' di vita che ha, che ha qualche anno più di voi, ma non neanche tantissimi. No, beh, adesso comincia ad avere un po' di più di voi, certo. Ma quando ha cominciato aveva pochi anni, e lui si occupa di NetArt, ma ha già scritto dei libri, delle cose, eccetera, quindi perché devo fare NetArt io, che ve la fa già lui e ve la fa sicuramente meglio di come posso farvela io. Tutte le parti, tutte le componenti tecniche della diciamo, avete dei corsi specifici per fare questa cosa, quindi io che cosa posso fare? C'è la roba fondamentale, che inoltre io non sono in grado, non ho le conoscenze, le cognizioni, la possibilità, la struttura mentale, nulla per farvi dei corsi di questo tipo. Io dite giustamente, ma che ci insegna a fare qua? Infatti mi insegno una cosa che molti di voi, non so se è chiaro, ma sto cercando di scoraggiarvi dal continuare a seguire questo corso. Quindi questo è un corso di filosofia, si fa filosofia in questo corso. Si fa filosofia per una ragione molto semplice, credo, adesso però vi spiego perché invece, cioè, diciamo, finora ho cercato di disamorarvi, adesso vediamo se riesco poco pochino anche a innamorarvi o a interessarvi, insomma, un attimo. Proverò, se non è così semplice. Ci sono sempre stati, sin da quando è comparsa nelle attività umane quella cosa misteriosa e mutevole, così diversa dall'epoca che noi chiamiamo arte. C'è sempre stata una relazione dell'arte con il pensiero. Questo sarebbe stupido negarlo. Quando l'anonimo artista, l'anonimo essere umano, che all'incirca 36-38 mila anni fa decise, avendo trovato una bella tratto di una parete, di una caverna, abbastanza liscio, senza troppo, un po' di asperità, ma senza troppe. E avendo visto, avendo sperimentato, evidentemente lui o qualcun altro con lui, che c'erano dei modi, c'erano delle materie che potevano lasciare delle tracce su questo, su una parete semiliscia, diciamo, su di una superficie simile a una superficie piana, diremmo noi. Questi signori probabilmente non avevano ancora un concetto di superficie piana, 36.000 anni fa. Le prime persone che ebbero una percezione di questo tipo furono forse gli egiziani e i babilonesi, che vissero più o meno 3.000 anni prima di Cristo nelle rispettive zone, perché guardavano la superficie della terra, che era abbastanza intorno al Nilo, intorno al Tigre o al Frate, c'erano dei tratti di superficie abbastanza, e questi si inventarono la geometria, questi, diciamo, signori, che poi qualche diversi secoli dopo, anzi due millenni e mezzo dopo, i greci sistemarono dal punto di vista scientifico, però insomma le prime intuizioni le ebbero da un lato gli egiziani, dall'altro gli assiro-babilonesi. Non so come sono andate le cose in Cina, ma anche lì ci deve essere una storia simile, insomma, perché anche lì la scrittura nasce più o meno nello stesso periodo in cui nasce in Egitto e nella piana che oggi si chiama Iraq. E quindi, siccome uno suppone che i fenomeni siano più o meno collegati, bene, quando questo signore si mise lì e con i suoi attrezzi, erano probabilmente, dico, non andate a scrivere, cioè, non le scrivete mai in nessuna relazione che fate di storia dell'arte, perché lo storico dell'arte vi darà bacchettate in testa e lo darà anche a me, naturalmente, ma insomma dobbiamo immaginarci in qualche modo come cazzo l'hanno fatto sto bisonte di Lascaux, Dio Bono, che ha fatto proprio bene, cioè è un bisonte, Dio Bono, cioè uno lo vede, cioè, questo è un bisonte, l'ha fatto uno 36-38 mila anni fa, non ieri, era uno che non aveva fatto Brera, questa persona qua, insomma. Però è bello. Poi è un bisonte, Dio Bono, cioè, e come è fatto? È fatto probabilmente con un pezzo di legno bruciato, e perché ci sono queste cose nere, probabilmente è il nero fumo, che poi è l'antenato del carboncino, insomma, no? E poi aveva probabilmente delle ciotole, qualcosa, aveva qualche recipientivo, magari non troppo cavo, ma un po' cavo, sì, in cui aveva dentro pestato delle piante, delle robe vegetali, delle bacche. C'è il rosso, c'è un blu, sono un vado errato adesso, io non le ho mai viste perché non c'è il blu. C'è un giallo, c'è un giallo, un rosso. Derivano tutte dalla terra. Più o meno dalla terra. Sì, non c'è altra. Però probabilmente qualche cosa di piante, sì, certo, ma quelle cose già di piante c'è. Insomma, per fare questo bisonte di Lascaux, per tracciare dei segni, delle cose bidimensionali su una superficie più o meno piana, più o meno piana, vagamente piana. E scommettere che questi segni che noi tracciamo su questa superficie generino negli altri, in altri esseri umani che non hanno tracciato quei segni, quindi che non condividono la nostra intenzione. Cioè chi l'ha fatto, grazie al cazzo, lui pensava al bisonte, che è ovvio, è fatto il bisonte, no? Ma il miracolo è che vede un bisonte in quei segni, anche chi non è nella testa, anche chi non era allora e non è oggi, non era nella testa di questo signore. Vuol dire che questo signore ha trovato un modo, e non c'era nessun, cioè, non c'era prega, non c'era neanche nessun manuale, dice disegna per do it yourself, fai da te. Per disegnare, non c'erano i corsi di scrittura creativa, non c'erano le assemblee di belle arti, non c'erano tutte queste altre belle cose in cui si pretende di insegnare a della gente come si fa a fare un disegno, come si fa a scrivere una poesia o un romanzo, tutte cose che non si possono, ovviamente, spero che condividiate con me, queste non si possono insegnare, non si può insegnare nulla di queste cose. Si possono stimolare, le singole menti a farsi venire in mente dei modi per farle, ma tutto il massimo che si può fare è questo. Quindi anche io adesso non è che vi... Il mio scopo fondamentale non è quello di comunicarvi dei concetti già fatti, certo ve li comunico perché sono i miei, non posso fare altro, ma il mio scopo è quello di fare in modo che ciascuno di voi possa o crearne di nuovi, lui, o accrocchiare, mescolare, mettere insieme a modo suo, nel modo in cui ognuno di voi deciderà, dei concetti già dati. Io questo vi posso insegnare, nient'altro, non posso insegnare nient'altro. A parte che mi metto lì e sono decido che mi insegno, a parte che mi ci vorrebbe ben altro che 75 ore per insegnarvi tutta la storia del pensiero occidentale, poi che di quello orientale so ben poco, quindi non posso insegnarvi nulla, ma anche di quello sarebbe un po' assurdo. Bene, allora torniamo al bisonte. Uso il bisonte perché è quello che mi è rimasto in mente a me quando ero piccolo, dalle prime volte che ho visto i libri, che l'ho visto su un libro. Poi dopo quando avevo deciso di andare o alla SCO o ad Altamira, mi sono reso conto che pochi anni prima avevano chiuso le grotte, perché, e quindi praticamente quelle robe non si potevano vedere. Le ha viste, uno degli ultimi che l'ha viste si chiama Georges Bataille, fu un filosofo francese che ha scritto un bel libro, un po' ingenuo a volte, ma esattamente sulle cose di Lascaux, che è stato ristampato credo 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, dalla casa editrice Mimesis. È un bel libro, un libro fatto bene, insomma, un po'. Bellini che lo spingeva tanto. Cosa? Bellini, no? Sì. Allora, quel libro è una marchetta, ragazzi, però nel senso che. Quello di Bataille non si è mai interessato specificamente a questa roba qua, lui è un filosofo, era il suo disinteresse andava più verso zone del pensiero e della pratica artistica, tipo l'erotismo, eccetera, eccetera. Però c'erano questi qui nel 48-49, nei primi anni 50, non mi ricordo l'anno preciso. C'era questo che faceva tipo, cosa sarebbe, non lo so adesso chi è, un editore, tipo erano i fratelli Fabbri qua in Italia, in Francia, non erano. Era un altro che faceva una cosa così e gli commissionarono, siccome era già un nome, insomma, più o meno, era un piccolo nome, no? Non un grande nome, ma insomma, meno famoso di Sartre, ma abbastanza famoso in Francia, in quell'epoca lì, quindi gli diedero a fare questa roba, quindi lui si guadagnò da vivere, però... Stranamente, cioè non è una cosa fatta con la mano sinistra, insomma, perché Bataille forse non faceva nulla con la mano sinistra, o si faceva le cose con la mano sinistra e gli facevano ugualmente bene di quelle con la mano destra, non so come dire, insomma. È un libro che a me piace, perché, vi ripeto, voi togliete un po' di, se siete, dopo un po' se poi leggete vi rendete conto di quando fa un po' troppo il retorico, però l'ossatura, insomma, spiega bene, insomma, cioè spiega l'importanza di questa cosa qua. Allora adesso dal mio punto di vista torno al bisonte di Lascaux, ma io non era Bataille, non ho letto Bataille quando ero piccolo, manco sapevo chi era Bataille, figuriamoci un po', una roba che ho scoperto tanti anni dopo. quando ero piccolo io era la preistoria, il pleistocene, quindi cose che non potete neanche immaginare, come quella del replicante, il Blade Runner, bla bla bla. E per cui insomma mi regalarono un libro in cui c'erano questi uomini, sai perché ero, poi dopo era una cosa che abbandonai presto, però poi mi tornò dopo, però insomma per qualche anno quando ero piccolino, quindi mi regalarono qualche libro, tra cui c'era uno di questi con queste cose, c'era quella della storia, io rimasi veramente colpito perché ero abituato a insomma vedere riproduzioni della pittura più o meno classica, insomma, quindi, erano gli anni che ero ancora un po', non dico scandalizzato, ma perplesso di fronte a, non so, Klee, Picasso, eccetera. Sì, li vedevo, li guardavo, sempre mai dal vivo, nelle riproduzioni. Insomma, però queste cose qui c'erano, non conoscevo quello dopo, diciamo, tutto Fela, Bruce, queste robe qua, insomma. Se avessi conosciuto forse avrei potuto fare qualche ponte che quando ero piccolo non ero in grado di fare. Però rimasi affascinato da questa. Dalle riproduzioni di questa cosa. E il primo che vidi evidentemente fu il bisonte, perché poi dopo ne ho visti tanti altri, dopo sempre appunto riprodotto. Mi è rimasto in mente il bisonte, quindi parlo sempre di questo bisonte, in realtà so che c'è un sacco di altre, no? Sono gli uomini che cacciano, c'è il cavallo, c'è una tigre, ce n'è un sacco, insomma. Sicuramente voi li conoscete meglio di me. Allora, cerchiamo di ricostruire. Allora, abbiamo una persona che evidentemente non c'ha un cazzo da fare, cioè che temporaneamente non deve né andare a cacciare bisonti, diciamo, reali, o gazzelle reali, o coniglietti reali, perché poi pare che più di quelli gli esseri umani non è che abbiano mai, insomma, per pigliare un'alce ci volevano spedizioni che duravano settimane, giorni, eccetera, insomma, non è così semplice, c'è la alci, mammut, roba un po' bossina, insomma, no? Mentre quelli più piccolini si pigliavano più semplicemente, anche quelli era difficile perché correvano come dei disperati, ma insomma. Allora, comunque, no, era uno che non aveva, uno o più persone che non avevano almeno temporaneamente da fare nessuna, come dire, nessuna battuta di caccia, non dovevano cacciare, evidentemente avevano già mangiato, o si mangiavano di verdura, perché la dietista gli aveva detto questa settimana mangia solo verdura, mangiavano solo verdura. Non dovevano scopare, o perché la loro compagna non c'era in quel momento, o perché gli aveva detto che non gliela dava proprio neanche dipinto. Le diceva, allora se ti dipingono, niente, nulla. Non sapeva cosa fare sto qua, insomma, a un certo punto, e quindi si mette lì, riunisce questi attrezzi che abbiamo detto sono il legno bruciacchiato e una serie di colori derivanti da materia che aveva più o meno a disposizione, e poi si è dovuto costruire qualcosa per stenderli, questi colori, perché qualcosa di simile a un pennello ci avrà ben avuto, magari erano delle piante anch'esse, non era nulla di costruito, probabilmente erano magari queste piante, questi equiseti, no? Queste piante che hanno questi pennacchi un po' così che li intingi se riesci a fare un po' di liquido, va bene, le condizioni materiali ci sono, un uomo che non c'ha un cazzo da fare di quello che fa, diciamo, di solito, cacciare, mangiare, scopare, ovviamente defecare, fare altre robe banali, però importanti dal punto di vista dell'organismo, quindi non c'è niente da fare, gli è venuto in mente, il fatto che però abbia raccolto queste cose, che cosa implica? Implica che abbia fatto un progetto, adesso mi metto lì e faccio qualcosa su quella superficie e li stendo. Voi sapete probabilmente che le ipotesi su queste pitture rupestri, che sono le più antiche che noi, quelle di Lascaux che non sono le più vecchie, ma insomma non so, comunque sono più o meno coeve, Lascaux, Altamira, poi ne hanno trovate moltissime in quella zona tra il sud della Francia, il nord della Spagna, sulla costa mediterranea, ce n'è credo 20 o 30, le due famose sono queste, ma sono anche le altre. Insomma, rappresentare uomini, animali e oggetti su una superficie piana implica avere consapevolmente o no, probabilmente inconsapevolmente, ma avere un sistema concettuale, un ponte interno costruito nella propria testa, non fuori. Fuori non c'è nessun ponte costruito di quel genere, non c'è nulla che leghi un bisonte in carne ed ossa al disegno di un bisonte fatto su di un muro, non c'è nulla nella vita reale, quindi è un collegamento che questo o questi esseri umani hanno fatto nella loro testa. E che cosa hanno fatto? Hanno fatto un lavoro ma bestiale, scusate il termine, sembrerebbe più riferito all'oggetto della loro cosa, ma bestiale nel senso di importanza, cioè di grosso, di diciamo enorme, di, mi spiace ragazzi, filosofico. C'era già della filosofia dentro, c'era già la capacità di estrarre da ciò che io vedo del bisonte. Inoltre il bisonte, ragazzi, non è, ma nessun animale fa così, cioè diciamo, il bisonte è più pericoloso perché se si incazza butta giù la corna e ti incorna e ti fa un buchetto in pancia, che non è, cioè, se è una lepre o un coniglio se ne scappa via, cioè nessun animale fa da modello per l'uomo, no? Ecco. Mentre uno posso chiedere all'uomo, cioè, mettiti lì, stai buono, magari ti pago, stai fermo per 12 ore e io ti faccio il ritratto. Lì non c'è diciamo, le figure di quegli animali sono fatte a memoria, sono fatte. Ora, che cos'è la memoria? Che cosa vuol dire la memoria? Che cosa vuol dire? Come si fa? Come funziona la memoria? È un modo del ricordo? No, è tutto il contrario. La memoria si basa sulla dimenticanza. La memoria è il contrario di ciò che noi abbiamo dimenticato. Ma l'attività fondamentale che noi facciamo è quella di dimenticare. C'è un bel racconto di Borges, che non so se qualcuno di voi ha letto, che si chiama Funes o della memoria. Nessuno l'ha letto. Allora, per chi non avesse fatto questo racconto con Folci, ve lo ricordo io. Si chiama? Funes. Funes. In realtà in spagnolo è Funes, ma noi tendiamo a leggere Funes. Funes. Oh, per la memoria. L'autore è Jorge Luis Borges, un argentino morto circa 10-15 anni fa, se non vado errato. Questo Funes è una persona che si ricorda tutto. Ricordare tutto vuol dire che lui sa dire in un certo giorno dell'anno, di un mese fa, 2 anni fa, 4 anni fa, 10 anni fa, dove stava, e vi sa descrivere il posto in cui stava fino nel minimo particolare. Se stava in campagna, accanto ad un muretto di quelli a secco, costruiti con una pila sull'altra, lui vi sa dire, vi sapeva dire, esattamente la forma, la posizione, il rapporto di ogni singola pietra di quel muretto, di ogni singolo filo d'erba che c'era lì intorno. E questa cosa lui la sa fare per qualsiasi degli avvenimenti e delle esperienze attraverso le quali è passato. Che vita fa? Che vita può fare secondo voi quest'uomo? Può fare una vita umana? Fa una vita assolutamente disumana. Perché? Perché non può avere nessun amico. Che cosa significa avere un amico? Vuol dire, tra le tante persone che, tra le tante o poche persone che si conoscono, sceglierne una a cui stare più attento, a cui stare più attenta, su cui concentrare, sapere su questa persona più cose di quelle che si sanno sugli altri. Ma se il mio modo, se la mia mente funziona, che io registro tutte le componenti possibili di qualsiasi evento, di qualsiasi esperienza mi sia capitata, io non ho alcuna funzione di scelta tra queste cose. Quindi non posso dichiarare una esperienza più rilevante di altre, tutte le esperienze sono uguali per me, non posso costruire nessun concetto, perché qualsiasi, tutte le relazioni tra me stesso e il mondo, tra i vari pezzi del mondo, tra le varie persone, sono equivalenti per me, io so tutto di tutti. Apparentemente io so tutto, sembro Dio quasi, no? Perché probabilmente Dio è in grado di fare così, dicono i teologi. Questa è una delle, diciamo, ragioni che se fossero vere, se Dio fosse davvero così, militerebbero piuttosto a sfavore della sua esistenza, di Dio, che non della sua esistenza. È molto difficile pensare che esista un essere che ha una conoscenza così totale, insieme analitica e sintetica, di tutte le cose, di tutte le cose del mondo. Quindi può essere che... va bene, insomma, ecco, e quindi, insomma, questo Funes, in altri termini, non è un essere umano come noi lo conosciamo, e non può avere una vita come quella che hanno tutti gli esseri umani. Per avere una vita più o meno come hanno gli esseri umani bisogna avere una memoria. Il racconto si chiama Funes o della memoria, ma in realtà Borges, il testo è molto breve, non è tanto lungo, sarà 10-12 pagine, non mi ricordo. Questo racconto fa parte della raccolta chiamata Ficciones, finzioni in italiano, che in alcune edizioni si trova insieme con l'Aleph, che è un'altra raccolta di racconti di Borges. In realtà però Borges conclude, o ci suggerisce praticamente, che in realtà Funes non abbia nessuna memoria, non ha memoria Funes, non è memoria questo fatto di sapere, di poter ricordare tutto quello che è successo, perché la memoria è se ognuno di voi si ricorda qualche episodio della propria infanzia, e probabilmente se lo ricorda, in maniera non si sa, in maniera diversa da come lo ricordano altri che hanno partecipato, che erano insieme con noi in questo evento. Ma insomma, se noi ci ricordiamo qualche cosa è perché abbiamo dimenticato tutto il resto, è perché abbiamo selezionato all'interno della nostra mente, inconsapevolmente, per una serie di motivi, noi abbiamo tratto da quella enorme quantità di materiale mentale che fluttua nella nostra mente, che entra, esce, va e viene, eccetera, abbiamo trascelto, non l'abbiamo fatto, ripeto, in maniera cosciente, qualche cosa di tutto quel poco, molto poco, una piccola percentuale di tutto quanto abbiamo vissuto è rimasta, ha lasciato delle tracce nella nostra mente, da un punto di vista fisico ha costruito delle sinapsi, dei circuiti nel nostro cervello che sono rimasti permanenti, per cui ogni volta che ognuno di noi ha dei particolari ricordi in cui una certa persona è associata a un certo oggetto, a una certa parola, a un certo modo di essere, queste associazioni sono nient'altro che dei circuiti neuronali, che tanti neuroni, alcune migliaia, alcune decine di migliaia a volte, connesse fra di loro, e in modo che da qualsiasi parte della periferia di questo, virgolette, ricordo mi salta fuori casualmente nella vita della reale, automaticamente si porta dietro tutto il resto, e quindi io mi ricordo quando la mamma la prima volta, io mi ricordo quando mi ha detto, quando mi ha dato un bacio, quando mi ha detto amore, quando mi ha detto come sei bello, quando mi ha detto che stronzo che sei, mo stai chiuso nella tua stanza e salti la cena, la prima volta che le ho visto mettersi una spilla di un certo colore, insomma tutti i possibili ricordi che sono delle piccole isole collegate, ma vi ho convinto che se non c'è dimenticanza non c'è il ricordo. Quindi se noi ci ricordassimo davvero tutto quello che ci è capitato saremmo degli esseri ben sventurati, sfortunati. Com'è che eravamo arrivati alla memoria? Adesso comincia. adesso comincia la sindrome della vecchiaia, io divago, e però ho perso il punto di vista. L'immagine del bisonte. Del bisonte, ok, grazie. Allora, per dipingere, questi esseri umani, 36.000-38.000 anni fa, hanno dipinto degli animali e degli altri esseri umani in maniera molto più rozza degli animali, questo è strano, cioè gli esseri umani di Lascaux, di Lascaux e di Altamira sono molto schematici, beh, cioè, tutta la cosa viene, ed è per questo che si è pensato, no? È molto difficile, ad una origine rituale e magica di queste immagini, cioè che le immagini fossero parte di un rito che si svolgeva davanti a queste cose. È possibile, non è, sono sicuro, ma alcuni hanno fatto questa ipotesi, che fossero dei riti propiziatori fatti prima della caccia. Dice così, domani, mi ha fatto questa bella cocca, questo bel suo disegnino, e domani il bisonte, incantato dalla, da che cosa? Dall'immagine mentale che noi cacciatori abbiamo del bisonte, è come la salamandra davanti al basilisco, o come il guerriero greco davanti alla testa della gorgone, rimane pietrificato e quindi si lascia catturare. Ovviamente le cose non andavano così, ma gli esseri umani si sono sempre distinti per questa loro caratteristica. Un po' di creduloni, insomma, anche buono, anche ad alto livello spesso. Sono la gran parte delle filosofie, dei sistemi filosofici sono dei sistemi di credenze assolutamente improbabili e su cui però si sono costruite, si è costruita non solo l'opera di qualche filosofo, ma poi dei modi di pensare tipici di tutta una serie di altre persone che seguivano questi filosofi anche senza saperlo a volte. L'importanza della filosofia non sta nel singolo filosofo, nel fatto che Kant abbia scritto la critica della ragion pura, ma nel fatto che per qualche strana e misteriosa ragione noi tendiamo in qualche cosa a ragionare tutti, o quasi tutti, o molti di noi, in maniera kantiana, anche se non abbiamo mai letto la critica della ragion pura. Ma grosso modo abbiamo una certa, sappiamo distinguere tra i sensi, l'intelletto, la ragione, eccetera, eccetera, anche se abbiamo, questo lo sa anche il Salumiere, sotto caso, senza offeso ovviamente per insomma, Salumiere, ma anche se non ha letto Kant, è in grado. Quindi diciamo, i filosofi spesso sono quelli che scrivono soltanto in maniera un po' più precisa, un po' più precisa magari, un po' più rotonda, un po' più retoricamente appetibile per una parte degli esseri umani, mi rendo conto, non per la loro maggioranza, ma insomma, o comunque più chiara, delle cose che poi in realtà ci troviamo a pensare molti di noi. Allora, adesso qua ci sono, perché l'ho fatta lunga, ma adesso torniamo. Allora, c'è un rapporto tra la creazione artistica e il pensiero, cioè le categorie mentali con le quali gli esseri umani ordinano la realtà. Può anche essere vero, anche se veramente possiamo dubitarne, che poi i meccanismi specifici nella singola persona, nel singolo artista, della cosiddetta creatività, scusate se tenderò ad usare il meno possibile questa parola, perché essa è stata sequestrata negli ultimi 20 anni o 30 anni da alcune delle categorie di persone più riprovevoli che ci siano sulla faccia della terra, pubblicitari e roba di questo genere. Creatività, che vuol dire, comunque a me. Però ogni tanto, se non troverò qualche sinonimo appropriato, magari me la sentirete dire anche a me. Allora, uno può pensare che la, virgolette, creatività del singolo essere umano passi attraverso un processo di furore, di perdita della chiarezza concettuale. Uno può pensare che quando adesso mi scappa il nome, ma voi pensate a quello che sta gripping, dai. Quello che è che... Pollock. Voi potete pensare che Pollock, adesso c'è questa bella tela qua, raffa e cose, mette lì, spreme, in preda ad un furore. È ovvio che c'è un componente di performance, quindi di improvvisazione, quindi di decisione immediata nel rapporto tra il corpo di Pollock, la tela bianca stesa sul pavimento, il tubetto di colore, eccetera, eccetera. Ma non è possibile pensare come voi siete in grado di ricostruire la genesi delle campiture di colore dei quadri di Mondrian, eh? Ah, quello è il contrario, eh? Come le campiture di colore dei quadri di Mondrian non sono solamente, o non sono forse neanche prevalentemente, il risultato di una scelta, di una visione razionale del mondo, il mondo è fatto così, adesso faccio dei bei campi, poi gli metto dentro dei colori, dei bei rettangoli, gli metto dentro dei colori magari primari diversi l'uno dall'altro, faccio queste cose qua, eccetera, eccetera. Voi sapete che c'è tutta una genesi della scrittura di Mondrian, che Mondrian quando era giovane, come tutti, insomma, è partito da una pittura figurativa e dipingeva a... dove cazzo stava? Ad Amsterdam o a Rotterdam, non mi ricordo, ad Amsterdam. Dipingeva le navi che vedeva nel porticciolo turistico, e queste navi erano dei piccoli scafi, piccole cose con dei lunghi alberi messi verticalmente e le bome orizzontali. Dipingi uno, dipingi due, dipingi tre, dipingi quattro, un po' se col coglione di dipingere le cose ma non c'aveva altro da dipingere che quello, un po' ha cominciato a, come dire, pensare, ha cominciato a fare lui stesso un processo di astrazione da queste, come dire, figure, e a poco a poco, si vede benissimo, nel corso da un anno all'altro, a volte da un mese all'altro, che l'albero e il boma, negli acquerelli o anche negli oli a volte di Mondrian, diventano sempre più densi, sempre più precisi, e tutto il resto, lo scafo della barca, la vela, le onde del mare, eccetera, perdono di importanza, fino a che a poco si arriva, non si spiega soltanto così, evidentemente, la pittura di Mondrian, però voglio dire, allora, come in quella che noi pensiamo sia uno dei vertici dell'astrattismo razionalista del Novecento, quindi Mondrian, addirittura poi proprio, come dire, settario, poi tanto sapete che Mondrian litigò con il suo grande amico, adesso se mi è scappato prima Pollock, poi scappa anche questo, Theo van Doesburg, litigò con Theo van Doesburg perché Theo van Doesburg, che era un pittore astrattista come lui, a un certo punto aveva introdotto in uno dei suoi quadri delle diagonali, cioè delle linee storte, questo era totalmente contrario alla metafisica astrattista di Mondrian, che prevedeva soltanto linee orizzontali e verticali. Trovate un quadro di Mondrian che abbia qualcosa, cioè della fase matura, qualcosa di diverso dalle linee orizzontali e verticali, e vi darò un premio alla vostra scelta. E quando Theo van Doesburg invece dipinge le cose, i quadri di van Doesburg per tutta una fase sono impossibili da distinguere se non fossero firmati dai quadri di Mondrian. Una volta ci sono un po' più di cosine, ma sono un po' più di i capi di colore sono un po' più piccoli, ma insomma. Però a un certo punto ce n'è uno a partire dal quale van Doesburg si distanzia da Mondrian, cioè fa delle linee oblique sulla tela, cioè delle diagonali, diciamo, diagonali o no, anche non diagonali. Allora, Mondrian si incazza tanto, Van Doesburg gli toglie il soldo, gli scrive una lettera, erano grandi amici, cioè Papa e Ciccia proprio, ce lo dice, ah, bastardo, cioè sempre dando su del lei, perché erano tutti, siamo nel 1912-13, non mi ricordo, una cosa del genere. Torniamo a noi. In quella che è sicuramente uno dei versi della pittura astrattista più razionalista che c'è del Novecento, cioè in Mondrian, noi scopriamo una componente genetica, di genesi, di trasformazione, no? Come questa pittura è radicata non soltanto in alcune figurazioni astratte, mentali, geometriche di Mondrian, ma anche in elementi della vita vissuta e di un'esperienza precedente. Così, in ciò che appare più diciamo, l'effetto di un processo assolutamente non razionale, non dico irrazionale, ma arrazionale, come può essere una pittura di Pollock, come poteva essere per certi versi, non diciamo Klee, che è una cosa, ma per esempio Kandinsky, la pittura di Kandinsky, che ci sembra così. In realtà poi andiamo a leggere i testi di Kandinsky e vediamo che dietro a questa apparente guazzabuglio di forme, di linee, in questi quadri astratti in modo diverso da quelli di Mondrian, ma pur sempre diciamo astratti, c'è dietro c'è una struttura concettuale. Kandinsky è uno degli artisti che più di ogni altro nella prima metà del Novecento ha prodotto delle teorie, ha fondato un movimento, ha del Blaue-Reiter, eccetera, e su questo ha costruito testi densissimi di teoria. Certo, non tutti hanno fatto così, Picasso non ha fatto così, cioè Picasso si vantava a volte, insomma, della sua ignoranza o della sua, ma anche in Picasso però si possono trovare, si trovano in tutti, insomma. Allora, spero di avervi convinto anche in questa cosa, poi voi ripensateci, però ripeto, spesso mi sentirete dire spero di avervi convinto, ma vi dico questo, vi suggerisco questo, tento di capire se ho fatto bene questo, semplicemente perché a volte vi presento dei modi di pensare un po', come si dice, contro intuitivi o che vanno contro ciò che magari vi hanno insegnato prevalentemente in questa cosa, ma non vuol dire che lo scopo, che il mio scopo principale è quello di convincermi, il mio scopo principale è quello di presentarvi dei punti di vista diversi e poi che ognuno di voi se li sbatta come gli pare a lui o a lei, ovviamente. Però se non sapete che ci sono altri punti di vista non potete neanche fare il confronto e non potete neanche uscire da quello, non potete neanche riconfermare quello che già pensavate in maniera più diciamo argomentata. Però. Allora, diciamo, c'è una dietro a ogni quadro, c'è dietro a ogni quadro, a ogni romanzo, a ogni opera d'arte in genere, di qualsiasi sia anche dietro a ogni opera musicale, dietro a ogni brano di musica, insomma, c'è una, in qualche maniera, una struttura concettuale o un rapporto tra le cose. Quindi già questo dovrebbe farci capire che come dire, il legame tra arte e pensiero, e quindi tra arte e la codificazione un po' più strutturata del pensiero che è la filosofia, quell'insieme di interrogativi che io mi pongo sul mondo, sui modi di funzionamento del mondo, sul rapporto tra l'uomo e il mondo, ma tutto questo ha a che fare con l'arte, nutre l'arte, l'arte si nutre di queste cose e se ne è sempre nutrita. Ma tanto più questo, cioè, mentre questo è stato una, come dire, costante, diciamo, in tutti i periodi della produzione artistica, diciamo, nel corso del Novecento e segnatamente nella seconda metà del Novecento, questa caratteristica, questo rapporto dell'arte con il pensiero ha fatto un salto di qualità. È molto più rilevante a partire dagli anni 10 del secolo scorso, ma soprattutto a partire dagli anni 50. Dico a partire dagli anni 10 perché, a prescindere dalle dichiarazioni di disinteresse di Picasso per la filosofia, la pittura cubista è una pittura profondamente filosofica. Infatti la pittura cubista non se l'ha inventata Picasso, ma un altro signore chiamato Braque, e un po' meno un altro chiamato Gris. Poi è arrivato Picasso, che ovviamente sapeva dipingere meglio o più esplosivamente di questi due, si è impadronito della cosa e noi pensiamo che il più grande pittore cubista sia Picasso, ma non è così. Il più grande pittore cubista è Braque, non è Picasso. E Brachera non era come Picasso, era una persona che leggeva, pensava, faceva, eccetera, e i quadri cubisti, i quadri di Braque, e poi in parte anche quelli di Picasso, sono dei veri e propri trattati di psicologia cognitiva, perché mostrano sulla superficie di un quadro la scomposizione degli elementi percettivi e cognitivi del mondo come vengono visti dall'uomo. Come ipoteticamente vengono visti dall'uomo. Braque si rifiuta di ricomporre nelle figure che apparentemente corrispondono a oggetti isolati, ma rappresenta una specie di stadio precedente della nostra, come dire, percezione, cioè quello nel quale, se io guardo queste tre cose insieme, la Repubblica di Platone, la vita delle immagini di Wunneburger, il mio cazzo di registro, certo, poi so dire percettivamente, so che questa è una cosa, questa è un'altra, questa è un'altra, ma c'è qualche istante, c'è una dimensione soggiacente, no, a questa divisione della mia percezione che mette le cose a posto, che relaziona le percezioni di un certo tipo con l'oggetto, con quell'oggetto di un certo tipo, in cui invece queste percezioni sono più distinte, in cui probabilmente il blu della proprietà di questo libro si confonde con il nero di questo, oppure si staglia sull'amaranto, che cazzo di colore sia, non lo so, perché non so i colori, il logo di Brera magari l'ho messo temporaneamente qua, poi l'ho riportato a posto, altrimenti nei quadri di Braque voi vedete questa cosa, nell'Arlecchino, perché è l'Arlecchino il simbolo della pittura cubista, perché il vestito di Arlecchino è già di per sé un patchwork, esibisce anche alla percezione ordinata la sua natura di patchwork, ma il discorso che sta dietro all'assunzione dell'Arlecchino come simbolo in qualche maniera del cubismo è questa: ogni percezione è un patchwork e ogni percezione ha una fase confusa, sconvolta, stravolta, in cui gli elementi della percezione si infiorano. Ora tutto questo ditemi voi se è possibile trattarlo, se è possibile parlare della pittura di Braque semplicemente parlando della pennellata, certamente, è ovvio, lo storico dell'arte ha tutto il nostro rispetto quando introduce degli elementi di questo tipo, ma capire la pittura di Braque e per certi versi anche quella di Picasso, nolente Picasso, volente o cioè nolente, nel caso di Picasso nolente, ma anche quella di Picasso, è impossibile parlare della pittura cubista se non si parla anche di questo rapporto che c'è tra quei quadri e un percorso di costruzione del concetto, della percezione e poi del concetto. Ma quando, nella seconda metà del secolo scorso, e precisamente nel bel mezzo degli anni 50, alcuni artisti esagerando questa componente concettuale, esagerando, mettendola in primo piano, facendola emergere in modo più chiaro che altri, questa componente concettuale, e quindi quando alcuni di questi artisti cominciano a creare delle opere in cui è l'operazione mentale si mostra alla superficie prima delle altre, cioè non si traveste sotto una forma percettiva ordinata, no? Ma ci dà addirittura l'elemento della concettualizzazione. Josef Kossuth è uno dei primi nomi che ci vengono in mente quando si parla di questo tipo di arte. Quest'arte si chiama infatti arte concettuale, è un'arte nella quale i concetti diventano come dire, esplicitamente la materia prima dell'arte. Voi sapete le opere di Kossuth, gran parte, una delle più famose, sono le tre sedie, no? Le tre sedie di Kossuth sono una sedia normale, una sedia fisica fatta, diciamo, di legno, una foto, un dipinto, una foto credo fosse, di questa, della stessa sedia messa lì, messa di vicino, o di un'altra sedia, non era sempre la stessa, perché poi sono opere in cui, è chiaro che sono opere in cui la singola realizzazione conta poco, la cosa importante è averle pensate, il modo come le hai pensate. Le tre sedie di Kossuth sono semplicemente non quella sedia di legno, quella foto della sedia e la definizione, terzo elemento, la definizione linguistica di sedia presa da un vocabolario di una qualunque, quella di Kossuth credo fosse una delle più famose presa dall'inglese, ma ce n'è altre messe diciamo in ungherese, in francese, in tedesco, eccetera. Allora, quando l'opera d'arte è questo, voi insomma capite che non conta più il fatto che ci sia quella certa sedia, quindi non c'è, come dire, tutta la parte di manualità non è scomparsa, ma è diventata secondaria rispetto alla struttura concettuale dell'opera. La struttura concettuale dell'opera diventa, con questo tipo di arte, che si chiama appunto arte concettuale, direttamente la materia prima dell'operazione artistica. Tutto questo voi sapete bene che ha un'origine che va indietro nel tempo ben prima di Kossuth, perché il primo artista esplicitamente concettuale è stato Marcel Duchamp, quindi fin dagli anni, possiamo pensare che l'origine dell'arte concettuale sia il primo ready-made che lui ha costruito, che non è l'orinatorio, il cosiddetto orinatorio che poi si chiama Mutt nella cosa, ma invece è la ruota di bicicletta, che nel 1913. Il fatto di prendere un oggetto già costruito tale quale, ricontestualizzarlo, metterlo in un altro, diciamo, contesto e dichiarare la dichiarazione dell'artista che quella è la sua opera d'arte, è già in maniera diversa un po' da quella di Kossuth, ma si configura già come un'arte in cui la materia prima e l'aspetto sensibile dell'opera è meno rilevante, a volte molto meno rilevante, dell'aspetto concettuale, cioè serve semplicemente come innesco, la visione della ruota di bicicletta montata su di un tavolino e su di un supporto pseudo piramidale a tronco di piramide, che è il modo in cui lui la mise per la prima volta, indica nient'altro che questo, indica che c'è stata un'inversione rispetto all'arte tradizionale tra anche l'amor sacro e l'amor profano di Tiziano. Penso sia Tiziano, però non so. Anche l'amor sacro e l'amor profano è un'opera d'arte concettuale, sono due signore, una discinta, una tutta ben vestita, accanto a una specie di ara di marmo, una da parte dell'altra di un'ara di marmo, e dice, vabbè, però attenzione, lì c'è un titolo, se Tiziano, suppongo, non avesse detto questo è l'amor sacro e l'amor profano. Certo, si poteva ricavare che quella era la mostrazione anche da altre cose, anche non dal titolo, il titolo è un po' più facile, ma insomma, certamente anche lì c'è c'è un invito esplicito dell'artista ad andare oltre, dietro la dimensione rappresentativa immediata. Che cosa rappresenta quel quadro? Quel quadro, uno che lo vede, rappresenta due signore, una di seminuda e una molto ben vestita, accanto a una specie di altare, di ara, questo vuol dire punto. Se io dico no, ma questo mi dice Tiziano che è l'amor sacro e l'amor profano, allora vuol dire che c'è una rappresentazione, questo è tipico già del mondo medievale, c'era anche nelle opere letterarie, è così, c'è il senso letterale, il senso allegorico, il senso anagogico, il senso simbolico, tutte le varie letture della Divina Commedia con cui ai miei tempi gli studenti liceali venivano venivano massacrati, adesso ai vostri tempi non lo so se l'hanno fatto, se lo facevano ancora di nuovo, insomma, ai nostri tempi, la lettura, la lettera, okay. Però è vero, insomma, dietro c'è questa cosa, c'è una superficie linguistica nel caso della lingua, rappresentativa nel caso della... insomma, anche qui non so se vi ho, sono convinto, comunque il mio punto di vista è questo. Nel corso del Novecento gran parte delle arti ex figurative, delle arti visive, sono diventate arti concettuali e quindi è impossibile, facciamo l'ultimo passo. Nel momento in cui c'è comunque una confusione, una non confusione non in senso negativo magari, ma insomma, una mescolanza, un mescolamento tra forme tradizionalmente considerate di arte e forme tradizionalmente non considerate di arte, non considerate di arte, tipo la comunicazione pubblicitaria o il videoclip o qualsiasi delle forme di espressione che, come dire, non sono esattamente la stessa cosa delle forme d'arte più o meno, diciamo, tradizionali. Nel momento in cui all'interno delle arti visive è comunque cresciuta una serie di attività che o hanno esplicitamente ripudiato il concetto di rappresentazione, per esempio la performance, che oggi viene considerata comunque una delle componenti del mondo delle arti, come dire, visive. E anche lì dietro la, come dire, performance, quando Gina Pane si infila nel braccio tutte le spine di un bel gambo di rosa bello lungo, quando Chris Barden si fa sparare davvero, non per finta, non per fare una foto, ma si fa sparare davvero in una strada di New York a un braccio da un amico con il fucile, e la ferita è vera, ci metterà settimane e settimane, con mesi per guarire, veramente una ferita di striscio. Quando gli azionisti viennesi, Schwarzkogler, Bruce, eccetera, si spellano fisicamente, materialmente, a poco davanti al pubblico nelle performance che fanno. Tutto questo non è teatro, non è rappresentazione, né Gina Pane, né Schwarzkogler, né, non mi ricordo più chi ho citato in mezzo, né Chris Barden, né Vito Acconci che si masturba nel sottoscala di una galleria, nessuno di loro rappresenta nulla, non fanno teatro, non rappresentano nessuno, sono Vito Acconci, Rudolf Schwarzkogler, eccetera, eccetera, sono loro, fanno delle cose, generano delle immagini non piatte su di una superficie bidimensionale o tridimensionali in fatto di qualche materia, tipo il marmo, il bronzo, il gesso o anche la creta, quel cazzo che sia. Le immagini di queste performance sono le immagini che si creano sulla retina delle persone che assistono a questa performance. Molto, molto mediatamente sono le immagini che sono le immagini fotografiche o video che rimangono di quella performance, ma le immagini videografiche non sono la performance. La performance è qualcosa che avviene in un dato momento, in un certo luogo, in un certo tempo, e ha un inizio e una fine. Se noi non eravamo lì, noi non l'abbiamo vista, nessuno di noi credo ha visto questo, io meno che altri. Queste performance a cui ho fatto cenno prima. Quindi certo c'è sempre in qualche maniera una immagine, ma non c'è più la rappresentazione, non c'è qualcosa che rappresenta qualcos'altro. Chris Barden che si fa sparare non rimanda a nient'altro da un punto di vista materiale che a Chris Barden che si fa sparare. Chiuso. Che cosa vuol dire questo? Che il rapporto tra significante e significato, che tradizionalmente è stato tramandato nel corso della storia delle arti visive, è radicalmente e drammaticamente cambiato nel corso della seconda metà del Novecento. Non è vero che non c'è più, certo che c'è un rapporto tra significante e significato, ma è esattamente un rapporto molto più simile, analogo a quello che c'è tra significante e significato nella ruota di bicicletta di Duchamp. Anche la ruota di bicicletta di Duchamp non rappresenta nulla. Cosa rappresenta? Una ruota di bicicletta, ma è già una ruota di bicicletta. Non è la foto di una ruota di bicicletta, non è il dipinto di una ruota di bicicletta, è una ruota di bicicletta materiale. Non è della materia che Duchamp ha preso, scalpellato e ha fatto una ruota di bicicletta di marmo. No, ha preso una bicicletta normale, costruita da un normale fabbricante di biciclette, l'ha staccata da una bicicletta con la sua forcella, l'ha messa sul coso, l'ha messa... Che cosa rappresenta? No, non rappresenta nulla. Vuol dire che non significa nulla? No, niente affatto. Vuol dire che il rapporto tra significante e significato è slittato. Ha cambiato patria, ha cambiato luogo, non si trova più nel luogo mentale astratto in cui noi lo vedevamo durante tutta la storia dell'arte, come dire, precedente. Si sta in un posto, sta in un luogo mentale, ovviamente astratto, non fisico, in cui si connette l'apparenza visiva, che in questo caso è tutt'uno con il significato originario dell'oggetto, se questo è un ready-made, o dei corpi, se c'è una performance in atto, no? Quello sta ormai tutto dalla parte del significante. Nella ruota di bicicletta ciò che significa non è la rappresentazione di una ruota di bicicletta, è la ruota di bicicletta, l'oggetto ruota di bicicletta. Che cosa sarà allora il significato in questo caso? Cioè, non è che non c'è un significato, anzi, c'è, ma ha bisogno di altri dispositivi mentali e culturali di tipo tutti tendenzialmente meta-rappresentativo. Meta-artistico, soltanto ciò che non è rappresentazione, soltanto ciò che non è arte rappresentativa tradizionale può funzionare da elemento che innesca una riflessione su che cos'è la rappresentazione o su che cosa era, perché adesso non lo è più, nella performance, nel ready-made, ho usato la performance e il ready-made perché sono le due forme d'arte, secondo me, contemporanea, in cui questo slittamento, questo cambiamento tra significante e significato è espresso in modo più chiaro, più estremistico, è più estremizzato. Ma in realtà la gran parte dell'arte astratta della seconda metà del Novecento, un po' anche quella della prima, insomma, soprattutto della seconda metà del Novecento, è un'arte che ha degli elementi in comune con questo modo di rappresentare l'arte. Curiosamente, so che questo è un concetto che digerirete con difficoltà, curiosamente gran parte delle attività tradizionalmente non considerate artistiche, anzi considerate una specie di sottoprodotto di scoria, diciamo, dell'arte, e in cui si pensa che la cosa più importante e più fondamentale sia la maestria tecnica, per esempio il videoclip musicale o lo spot pubblicitario, sono due forme di espressione che, se voi andate a scavare un attimo dietro, trovate che hanno molto in comune con queste forme non rappresentative di arte. E io so già che adesso il cover di Vaffanculo non è ancora partito, ma potrebbe partire. Dici, ma come? Che dici? Non rappresentative, sono più rappresentative che non certo, è ovvio, non lo so, pubblicitario. Adesso mi spiace di poter fare pochissimi esempi perché io non ho più televisione da più di 20 anni, quindi non so nulla delle, so quasi, so ben poco delle attuali forme di pubblicità, quindi forse non posso farvi degli esempi molto, come dire, significativi. Allora, è evidente che c'è, che è ovvio che, diciamo, al primo livello uno pubblicitario è una rappresentazione, perché è una... però è, attenzione, è una rappresentazione che già il fatto che il termine rappresentazione è un termine che va bene, possiamo usarlo, eccetera, però è insomma ingannevole, eh? Dice, ma che cosa rappresenta? E noi tendiamo spontaneamente, molto spesso, a identificarlo con il termine di significato, no? Qual è il significato del quadro di Tiziano con le due, con le due signore, una di qua, l'altra di là, la cosa di mezzo? Ah, il significato sta nel titolo, è l'amor sacro e l'amor profano. Sì, che cosa rappresentano quelle? Quella signora, quella con pochi vestiti, rappresenta l'amor profano. Quella con tanti vestiti rappresenta l'amor sacro. L'altare in mezzo che cosa cazzo rappresenta? Questa è già più dura da dire che cosa rappresenta, ma se ci sforziamo un po' forse rappresenta il fatto che c'è un elemento che accomuna tutti e due, queste due cose sono separate ma sono anche unificate in qualche modo dal fatto dell'amore. Ed è tutta una... scelgo questo esempio perché è molto bello, c'è una trasparenza tra la semiosi dell'immagine, la natura di segno dell'immagine, con la semiosi linguistica, con il rapporto tra significante e significato nelle parole del titolo, la mossa che non può fare, è facilissimo, è facile. In realtà però tutta la storia dell'arte, diciamo, da Lascaux fino agli impressionisti, grosso modo, è servita per incorporare nella forma sensibile del quadro o della scultura, con la musica sono cazzi acidi, perché tutte ste robe che noi diciamo adesso per la musica non vogliono dire assolutamente nulla. La musica è un'arte non referenziale, che a volte qualcuno ha voluto rendere referenziale per farla un po' più comprensibile, ma di per sé la musica è non referenziale. Cosa diavolo significa? Che cosa significa? Scilazio, cosa significa? Scilazio significa, ma che significa la musica? Che significato ha la musica? Che cosa significa? Non ha nessun significato, non significa un bel niente. C'è altre, non tanto altro, per il tema della musica, c'è una filosofia della musica, ovviamente pochi filosofi, ma si sono dedicati anche a questo, il più importante è Theodor Adorno, esponente della scuola di Francoforte. Ma non parleremo della musica, sarebbe, poi io non sono capace di parlarne, non so, ma insomma era solo per segnalarvi che nel mondo, nel complesso mondo delle arti ci stanno tante cose che sono difficili tenere insieme. Diciamo, ma in qualche modo la struttura rappresentante-rappresentato, significante-significato c'è sia nelle arti visive che nella letteratura, cioè sia nelle arti dell'immagine che nelle arti della parola. Sia pure con una diversità di esiti, però molte tematiche sono, diciamo, comuni. Bene, nelle arti visive, la storia delle arti visive ha fatto in modo che le due categorie, rappresentante e rappresentato, significante e significato, fossero in genere sempre corrispondenti. Il rappresentante era lo stesso del significante, il rappresentato era più o meno lo stesso del significato. L'arte del Novecento, a partire dalle avanguardie e con più radicalità nell'ultima fase, nella seconda metà del secolo scorso, invece ha separato questa facile, però semplice, ma anche molto utile, correlazione tra significante e rappresentante, significato e rappresentato. C'è stata una disconnessione. Questi quattro termini si sono come dire, si sono presentati, dimmi? Sì, sì. No, è più complicato. Allora, faccio prima... significante. Significato. Rappresentante non vuol dire politico, vuol dire l'oggetto che rappresenta qualcosa d'altro. Rappresentante, facciamo prima. Allora, è ovvio che c'è... usiamo le frecce solo nella dimensione così, eh? Il significante rimanda al significato, cioè è il rappresentante del significato. Il rappresentante è, rimanda al, rappresentato. No, miracolo. Ora, nella visione classica, qua c'è un segno di identità, no? Il significante è il rappresentante, il significato è il rappresentato. È relativamente semplice orientarsi, eh? Le due signore che stanno dai due lati dell'ara nel quadro di Tiziano sono il rappresentante, sono anche contemporaneamente significati, significano qualche cosa. Che cosa rappresentano? Rappresentano esattamente quello che significano, l'amor sacro, l'amor profano. Non c'è, diciamo, differenza nella struttura concettuale di quel quadro. Ciò che significa è ciò che rappresenta, ciò che è significato è ciò che è rappresentato. No? Nell'arte, nella tarda arte moderna, quella che i galleristi chiamano arte contemporanea, che cosa è successo? C'è sempre una struttura di rappresentante e rappresentato. Questa è la prima novità. Su quella linea c'è un punto di domanda. Non siamo sempre in grado di distinguere con facilità nell'arte contemporanea ciò che è rappresentante da ciò che è rappresentato. Mentre siamo relativamente sicuri che c'è sempre un significante e un significato. Questa è la riga della semiosi, cioè dell'attività di costruzione di segni. C'è qualcosa che sta per qualcos'altro. Però se questo qualcosa che sta per qualcos'altro, cioè se c'è qualcosa che significa qualcos'altro, nell'arte, in tutta l'arte, era la stessa cosa di ciò che rappresentava rispetto a ciò che era rappresentato. Questo punto di domanda, cioè questa crisi della relazione tra rappresentante e rappresentato, fa sì che i segni di uguaglianza non possano più sussistere. Bene, bene che vada, saranno dei punti di domanda pure questi. Bene che vada. Saranno disaccoppiati. L'arte, ripeto, quella che i mercanti chiamano arte contemporanea, ha disaccoppiato la struttura di significazione dalla struttura di rappresentazione. O perché la struttura di rappresentazione non esiste più, come nella performance, o perché la struttura di rappresentazione si è spostata da un'altra parte, come nel ready-made da un lato e nell'arte astratta dall'altro. Questo è l'aspetto semiotico dell'arte, questo è l'aspetto materiale. Il rapporto di rappresentazione è sempre un rapporto materiale. È un concetto che si incorpora in qualche cosa, in un quadro, in una scultura, in un testo. Né il significante né il significato sono materiali, neanche il significante è materiale, occhio. In un quadro il significante non sono i colori distesi sulla tela, non è la tela, non è l'insieme della tela e dei colori, non è il blocco di marmo. È ciò a cui rimanda nella nostra percezione immediata quei colori su quella tela, quel blocco di marmo così modellato dallo scalpello dello scultore. Nel rapporto di rappresentazione invece, il rappresentato è astratto, certo. Dipende anche lì da dove, come dire, mi metto, ma il rappresentante è sicuramente materiale. Che cos'è che rappresenta l'amor sacro e l'amor profano? Il quadro di, cioè, come dire, Tiziano? No, o meglio, sì, ma il quadro di Tiziano nel senso dei colori stesi su quella tela, di quella tela materiale, è un oggetto materiale il rappresentante, Nella performance di Chris Barnes che si fa sparare addosso da un amico, dove sta il rappresentante? A parte che è scomparso il rappresentante. Sì, è scomparso il rappresentante. Non c'è più. Che cosa è stato? Non è stato rappresentato nulla. Cioè, è stato agito qualcosa, qualcuno ha fatto qualcosa che non rappresentava un bel niente. Qualcuno ha sparato addosso a Chris Barden davvero. C'era un fucile reale, materiale, una pallottola materiale, una ferita materiale nel braccio di Chris Barden. Chris Barden è caduto per terra, ha gridato, ha pianto, è arrivato un medico, l'hanno portato in ospedale, gli hanno estratto la pallottola, cazzo. Dove sta la rappresentazione? Non c'è più nessuna rappresentazione. Mentre c'è sempre, certamente, e possiamo sbizzarrirci, c'è sempre un rapporto significante e significato. Ha significato qualcosa quella azione. Ha significato qualcosa anche se io fossi un critico d'arte deficiente e reazionario come Vittorio Sgarbi, e volessi sostenere che quella azione è insensata, non è arte, che non c'entra nulla con l'arte, che certo non c'entra nulla col modo che tu hai di guardare l'arte, che implica sempre un certo rapporto tra rappresentato e rappresentato. Certo che di rappresentato e rappresentato non c'è più nulla, in questo senso ha ragione, diciamo, Sgarbi, ha torto perché lui non è capace di capire che c'è un'arte che può fare a meno, che storicamente ha fatto a meno, sta facendo a meno ormai da decenni, decenni, decenni di un livello rappresentante rappresentato, ma questo non vuol dire che non abbia a che fare con un rapporto significante e significato. Tanto più questo è vero, cioè tanto più c'è un legame, quindi tra arte e pensiero, in quanto sui tradizionali strumenti, non diciamo più di rappresentazione, perché può darsi che non ci sia, ma di significazione, certo, sui tradizionali strumenti di significazione, che sono il marmo, la terracotta, lo scalpello, il forno, i pigmenti, i colori, i colori acrilici, i colori a tempera, tutto l'universo della pittura e della scultura tradizionali, e su questo si è inserito uno strumento totalmente diverso, immateriale, che è il trattamento dell'informazione ad opera di macchine a ciò, diciamo, concepite, cioè per questo scopo concepite e costruite, cioè il computer. Il rapporto, il legame che c'è tra il substrato scientifico e quindi di pensiero, di teoria scientifica, e il funzionamento, il rapporto tra struttura di pensiero, struttura concettuale e funzionamento della macchina che c'è nel computer è totalmente diverso dal rapporto che c'è tra funzionamento delle tecniche tradizionali, delle arti rappresentative, possiamo dire ormai, tradizionali, cioè pittura e scultura, e il modo in cui lavorano. Non già nel senso banale e anche un po' stupido per cui le tecniche, gli strumenti informatici avrebbero di per sé maggiore autonomia degli strumenti materiali tradizionali, dei colori e delle tecniche per scalfire e modellare delle materie dure, dure o meno dure, perché la creta non è dura, insomma, nella scultura. Non è tanto quello, perché ovviamente un intervento progettuale di qualcuno che decida a priori che cosa vuole fare, questo ci vuole sempre. Tanto con la pittura, quanto con la scultura, quanto con il computer. È che tutta una serie di dimensioni intermedie, direttamente manuali, tra il momento progettuale e il momento realizzativo, che sono sempre state tipiche di tutte le attività umane, dall'inizio della storia, da quando è cominciata la storia degli esseri umani, sino all'età industriale matura, con il computer viene meno. Cosa fa il computer? Non abolisce la, come dire, dimensione progettuale, no, certo. Le fantasie sul fatto che questa dimensione possa mai essere abolita sono veramente fantasie. E non tengono conto che semplicemente il momento progettuale si sposta, si è spostato e si può spostare ancora più in là, certo, non voglio dire che è finito qua. Si potrà ricordare, ma questo però non esclude, anzi non toglie, non elimina il fatto che c'è una dimensione progettuale. Quello che c'è una dimensione progettuale, quello che è eliminato è tutto l'insieme di attività intermedie tra la progettazione e la realizzazione. Alcune di queste sono ancora rimaste, ma tendenzialmente ormai sono tutte scomparse, tendono a scomparire sempre di più. Non c'è più alcun intervento umano, o non ci sarà, tra breve, tendenzialmente non c'è alcun intervento umano tra il momento in cui si progetta qualche cosa e il momento in cui questa cosa viene realizzata. Tutto quell'insieme, quando pensate a Michelangelo che dipinge la Cappella Sistina, no? Lui che, se voi potete vedere, quando gli danno da fare la Cappella Sistina, lui non è che ha dipinto molto, insomma, è più che altro è più noto come scultore che non come pittore. Però Giulio II vede giusto, poi i suoi consulenti gli hanno detto che è stata un'ottima operazione di marketing, oltre che per la storia dell'arte, insomma, anche dal punto di vista della Chiesa, è stata buona, insomma. Però voi sapete, se voi leggete le lettere di Michelangelo o anche alcuni dei suoi sonetti, vedete che lui si lamenta tantissimo, cazzo, perché non c'era veramente abituato, cioè si deve stendere, sta lì, stendere una cosa, dipinge su qualcosa che sta lì, tutto il colore sulla faccia, incazzata come una biscia, cioè perché non sono allora lì c'è, ok. Lui prima pensa, diciamo, per così, qua ci metto Dio, lì ci metto Adamo, lì ci metto i patriarchi, lì ci metto il corpo, lì ci metto, e quindi se lo pensa, poi fa le, dopo che ce l'hai pensato, se l'hai pensato comincia a fare gli schizzetti, fa i disegnini, no? Cioè, questo lo può fare anche con il, si può fare pure con il computer, certo. Però una volta che, grosso modo, il progetto ha preso forma nella sua testa e nella prima ondata di schizzetti, disegni che ha fatto su carta, poi tutta la fase, allora, ci mette tutta la fase estiva, delle sinopie, deve fare tele, qualcosa, con i disegni, poi attacchi le sinopie al muro, scontorni, togli la tela, tagli la tela, dipingi, fai le cose, fai le figure normali, sapete che non le ha fatte mica tutte lui, perché sennò chiaramente in un anno e mezzo non ce la faceva, da 2 anni, non un anno e mezzo, non credo, 3 anni forse, comunque pochissimo tempo, è stata fatta la Capella Sistina, una delle opere d'arte più ricostruite più rapidamente di tutta la storia, perché c'era sto papa dietro che lo impungolava le natiche col furacone dei diavoli, per farlo finire in fretta. Non fate ironie sul fatto che poteva anche essere che a Michelangelo piaceva tutto questo, stiamo al film, Il film Michelangelo non è affatto omosessuale, è un po' tormentato, ma insomma, L'estasi, come si chiama? L'estasi, la gloria, c'è un filmaccio orrendo, Concerto onesto, non l'avete mai visto, Concerto onesto con Michelangelo, che in cui gli si va a vedere come dipinge, ma non... non gliela fa dipingere così la Cappella Sistina nel film, però se non ricordo male, cioè se lui sta sempre seduto, fa delle cose strane, non so, chiaramente voi sapete che è impossibile aver fatto la volta alla Cappella Sistina, se non stai sdraiato non puoi dipingere. Bene, allora, tutta la fase che va dalla fine della progettazione, diciamo, quando hai i tuoi disegnini pezzo per pezzo con le cose, tutta la parte delle sinopie, fare le sinopie, attaccare le sinopie, poi pigliare i tuoi allievi, fargli fare la cosa, insomma, comunque sovrintendere a tutte le cose qua. Tutta questa parte con il computer scompare. Voi programmate, fate il vostro computer e lui, diciamo, entro certi limiti, fa tutto da solo. Basta che gli abbiate detto, evidentemente, con sufficiente precisione, tutte le cose che, diciamo, deve fare, ma e adesso ancora non c'è, insomma, ma si può benissimo pensare, mentre è difficile pensare, secondo me, ad un robot che pensa, è difficile supporre che si arriverà mai a una vera intelligenza artificiale, perché è difficile riprodurre con il silicio anche soltanto la complessità dei processi biologici, non parlo di anima, di spirito, nulla, ma le cose materiali di un, diciamo, cervello. È però possibile supporre, cioè è però possibile ipotizzare un robot che dipinga delle cose che tu gli dici di dipingere, certo, per cui gli dai delle istruzioni molto molto precise, ma perché non potrebbe essere costruita una macchina? che non ha senso, naturalmente, non è una fantasia puramente intellettuale, ma diciamo tutta la parte, diciamo, gli sviluppi delle tecnologie dell'arte ci hanno, come dire, smagato, disincantato, come possiamo dire, ci hanno fatto capire che diciamo, i gesti in cui noi abbiamo tradizionalmente identificato la produzione dell'arte, cioè appunto questo pittore tutto sporco di colori, con la tavolozza, il pennello, questo scultore tutto pieno, che con lo scalpello, magari pure con un trapano elettrico, insomma, comunque interviene sulla materia dura, sono tutte inessenziali all'arte. Non è detto che debba farle l'uomo, possono farle anche altri procedimenti, possono farli delle macchine opportunamente ben guidate, possono fare delle macchine. Questo non vuol dire che le macchine possono automaticamente fare dell'arte, o se possono farla la faranno sicuramente in maniera diversissima da come la fanno gli esseri umani, ma un'arte umana realizzata a macchina è possibile pensarla, ripeto, basta intendersi su che cosa, no? Su che cosa è, su come la... Allora, tutto questo, se questo è vero, poi che sia desiderabile o no, è un altro discorso, uno può dire, ah, che schifo, va bene, però di fatto sta di fatto che le cose stanno comunque così, questa è la situazione, diciamo, attuale. Allora, questo, mi permette di rendere esplicita una cosa, che bisogna quantomeno riflettere sul fatto di, ma dove sta allora? Dove sta la parte più importante del processo artistico? E mentre l'arte tradizionale ci mostra una un intreccio ineliminabile, tra la parte ideativa, progettuale dell'attività artistica e la parte materiale, realizzativa, lo sporcarsi le mani con i materiali di vario tipo, dimostra non che questa parte realizzativa è del tutto scomparsa, ma che è trasmigrata anche lei nella parte concettuale. Un artista, una persona che produce delle opere con il computer, dei filmati, delle immagini fisse, di della musica anche, da un certo punto di vista. Non è che la dimensione realizzativa è scomparsa, è stata spostata, si è trasportata. Voi sapete benissimo che sarà difficile che un artista bravo, lasciamo perdere quelli che oggi fanno miliardi sul mercato, non parlo né di artisti chiaramente concettuali come Cattelan, come Damien Hirst, eccetera, parlo di quelli molto più oscuri, che a volte non vengono neanche considerati artisti, che però producono delle cose però utilizzando integralmente il computer. Si può utilizzare integralmente il computer. Certo, per fare delle cose abbastanza originali, complesse, eccetera, non ci possiamo limitare a usare i software che ci sono sul mercato. Dovremmo costruircene noi che vogliamo produrre, che vogliamo fare, diciamo, dell'arte. Quindi, e la costruzione di questi software potrà intervenire anche nella parte realizzativa, cioè per tutta la catena produttiva interna al computer. Io nutro il computer con un progetto, ovviamente informatizzato. Poi posso certamente accontentarmi di quello che può fare il computer con i software esistenti. Se però voglio fare delle cose realmente complesse, nuove, che non si sono mai viste, eccetera, dovrò probabilmente costruire io, o farmi costruire da altri, ma allora vuol dire che l'artista è un team, è una squadra, uno che progetta delle cose e poi uno che fa il software, che è in grado di capire cosa vuole davvero questo, chiamiamolo progettista, e che costruisce il software, meglio ancora se è un'unica persona, o se è una squadra molto affiatata, che produce queste cose. Insomma, credo che sia sempre più impossibile, o sempre più difficile, sempre meno facile, distaccare la componente non soltanto progettuale, ma concettuale e quindi filosofica di un'attività artistica dalla sua attività realizzativa oggi. Quando dico attività concettuale intendo, come spero di essermi spiegato, attività concettuale a vari livelli. C'è un'attività concettuale nella parte di progettazione, c'è un'attività concettuale nella parte di realizzazione. Se io voglio davvero utilizzare tutte le tecnologie informatiche che sono a disposizione oggi, pensiamo alla scultura, come diavolo si chiama, mi scappano i nomi, la scultura totalmente informatizzata in 3D che ha un nome, ma non mi scappa il nome, che consiste nel fare un certo progetto e poi attraverso una macchinetta che sputa degli strati molto esili, molto piccoli, li sovrappone l'uno sull'altro di materia plastica, e c'ha un nome che non mi ricordo, sta roba, comunque cercatela che ve la trovate. Alcuni designer contemporanei producono delle opere, alcuni che stanno a metà tra l'industrial design e l'arte. Per esempio mi sembra Philip Stark ha fatto delle cose con questa tecnica, è una cosa che si chiama 3D ma non mi ricordo il nome, quando voi fate una roba di quel tipo, è ovvio che per costruire una macchina di questo genere, cioè che è in grado di replicare un disegno, cioè un disegno tecnico evidentemente, quindi un progetto abbastanza, però di farlo direttamente, cioè di fare in modo che voi costruite un oggetto tridimensionale, certo di una sostanza particolare, non può essere marmo, tanto per capirci, però può essere una plastica anche molto dura, eccetera, non è che c'è con delle caratteristiche organolettiche. C'è un'attività concettuale anche sul piano realizzativo, no? Ci sono dei concetti che vengono, senza dei concetti quella macchina non poteva essere ricostruita. Quelli che hanno costruito quella macchina hanno usato, si sono appropriati di una struttura concettuale e addirittura probabilmente anche il modo in cui queste macchine, molto costose ancora eccetera, funzionano, ha una dimensione variabile da persona a persona, da artista a artista. Quindi c'è una modulazione di questo mondo, diciamo, concettuale. Insomma, se la cosiddetta comunicazione multimediale non è nient'altro che il riproporsi di attività vecchie, tutte già note, non c'è niente di nuovo nelle attività che fanno parte di questa cosiddetta comunicazione o espressione multimediale. Quello che è nuovo è il modo in cui si combinano insieme e si mescolano e si relazionano l'aspetto progettuale, l'aspetto realizzativo e tutte le tappe intermedie tra la progettazione e la realizzazione di qualche cosa. Questo vale tanto per la produzione di forme tutto sommato tradizionali, ma dentro un contesto totalmente diverso, per esempio dentro a sistemi produttivi, diciamo, diversi, il videoclip, musicale, lo spot pubblicitario, il video pubblicitario, che però sono sempre forme di tipo espressivo, quindi da un certo punto di vista è assurdo guardarle dall'alto in basso e dire non sono arte, sono una forma di espressione, certo che tiene conto in maniera più diretta e più immediata di alcune necessità, di alcuni limiti, di alcuni vincoli posti dalle attività economiche o espressive di altro tipo, per esempio la musica, alla quale sono legate, ma hanno tutto sommato il diritto di arte. Bene, è impossibile fare tutta questa arte se non abbiamo una minima, dico minima, non è che dobbiamo essere degli specialisti di filosofia, ma dobbiamo avere un minimo dobbiamo essere capaci di destreggiarci anche nella struttura concettuale di queste attività. Quindi ecco lo scopo di questo corso. Lo scopo del mio corso non è quello né di insegnarvi tecniche, né quello di insegnarvi storia dell'arte naturalmente, né quello di insegnarvi una particolare forma d'arte che si chiama net-arte, che è l'arte di rete, l'arte relazionale nelle reti, ma è quello di darvi alcuni strumenti più generali attraverso i quali sono. E questi strumenti più generali ovviamente vertono su una cosa fondamentale, cioè su ciò. Anche qui non c'è niente di nuovo, quando vedrete la parola che scrivo sulla lavagna vi verrà da ridere, direte, vabbè, ma non è del tutto normale. La vera radice, la vera ragione, base, insomma, o comunque l'attività fondamentale umana degli esseri umani, per la quale gli esseri umani sono sempre stati multimediali e quindi oggi sono multimediali effettivamente in maniera diversa da come lo erano prima, sta nel fatto che c'è una attività simbolica e entro certi limiti rappresentativa, ma insieme rappresentativa ed espressiva, che l'uomo ha sempre, che almeno Homo sapiens, ha sempre praticato e senza la quale probabilmente non sarebbe Homo sapiens. Noi sappiamo che le pitture rupestri di Lascaux, di Altamira e degli altri posti sono, abbiamo detto, in circa 36-38 mila anni prima di Cristo, prima di ora, credo, sì, prima di ora. No, quindi 35.000, 36, sì, dico 36-38, mi sono i 2.000 anni tra la Maestra di Cristo e noi che possono ballare, da 36 a 38.000, perché non mi ricordo mai qual è la datazione, diciamo, precisa. Nulla esclude, non siamo sicuri che siano le prime, può essere che ce ne siano state altre prima che a noi non sono, diciamo, arrivate. Quello che siamo sicuri è che però, da poco tempo prima l'uomo è dotato di questo strumento comunicativo ed espressivo che lo, diciamo, caratterizza, e questo strumento ovviamente è il linguaggio. L'uomo è un animale multimediale perché è un animale linguistico. Il linguaggio è la prima cosa, è la cosa più fondamentale che collega due dimensioni apparentemente totalmente diverse, no? Dell'esperienza umana. Una è quella materiale, e intendo materiale in termini molto, molto vasti, materiale e relazionale, sensibile e forse anche intellettiva da un certo punto di vista, ma non siamo sicuri, diciamo, su questo. Gli oggetti che vediamo, le altre persone che vediamo, che ascoltiamo, che tocchiamo, i rumori che sentiamo nel mondo circostante, nella, diciamo, natura, gli odori, i sapori, tutto l'aspetto, noi siamo legati al mondo da una serie di attività di percezione di questo tipo. Le chiamo materiali perché esse hanno gli oggetti visivi, gli oggetti uditivi, sono cose che hanno influenza su dei pezzi del nostro corpo, quindi sulla materia, sui nostri occhi, sulle nostre orecchie, sulla nostra pelle, sul nostro naso, sulla nostra lingua e dove sono localizzate le zone con le quali noi possiamo entrare in contatto con il mondo, no? Questa è la nostra. Senza questo noi saremmo, non avremmo, cioè, saremmo, come diceva Leibniz, un filosofo tedesco del Seicento, saremmo delle monadi, chiedo a quelli di origine veneta di evitare battute su questo termine, su delle cose unitarie, diceva noi esseri umani, diceva lei, siamo monadi, e le monadi non hanno né porte né finestre, diceva, cioè no, non sono in realtà collegabili le une con le altre, è una, è un modo di pensare un po' strano, però lui nella sua visione aveva delle... Allora, noi senza gli organi di senso, senza l'esperienza sensibile che noi come facciamo, evidentemente saremmo delle robe di questo tipo, saremmo delle statue mute, delle cose... in realtà questo ci dà un certo rapporto col mondo, ma poi noi a questo rapporto col mondo, che è un rapporto puramente sensoriale, relazionale nel senso del senso, che è quello che hanno tutti gli animali, anzi tutti gli esseri viventi, comprese le piante, in modi diciamo diversi, anche le piante hanno un sistema sensoriale, colgono, eccetera. Bene, noi a tutto questo sovrapponiamo il linguaggio. Cos'è il linguaggio? Chiaramente ne parleremo le prossime volte, per oggi mi fermo, ma la dimensione linguistica è una dimensione totalmente è relazionale anch'essa, ma non nel senso materiale in cui è nella nostra relazionalità sensibile, le relazioni sensibili che noi corporee, che noi costruiamo direttamente col corpo, quindi con gli organi, con quelle parti del corpo che orientano il nostro legame con gli altri esseri umani, con gli altri esseri viventi e con tutto il mondo. Il linguaggio è la struttura rappresentativa per eccellenza. È una decisione, dicevo qua 10.000 virgolette, se mai si vede il termine decisione, nessuno l'ha deciso naturalmente, ma è come se si fosse trattato di una decisione dell'uomo di far corrispondere a certe configurazioni del mio rapporto col mondo, al contatto tra i corpi, alle cose che vedo, alle cose che ascolto, alle cose che sento, agli eventi che succedono nel mondo, ai fiumi che scorrono, ai vulcani che eruttano, alle montagne che crescono, che noi non possiamo vedere, ma crescono, solo che crescono così lentamente che non possiamo vedere, ma insomma, ai terremoti, a tutte le cose che alle piante che nascono e muoiono, quelle sì che le possiamo vedere, non tutte, le querce sono più longeve di noi, e gli ulivi anche, ma che ne so, i salici o i pioppi, no, le piante di basilico neanche, nascono e muoiono entro un anno. Allora, a tutto questo noi sovrapponiamo una struttura di suoni totalmente insensati, che non vogliono dire nulla. Che voglio dire? Non vogliono dire nulla. Però, a seguito di una nostra decisione, se questi suoni vengono concatenati in un certo modo, seguendo certe regole, che noi impariamo quando siamo piccoli nel primo anno di vita, in maniera totalmente inconscia e inconsapevole, queste formano una struttura fonetica che ha una relazione con le nostre esperienze materiali. No? Non è multimedialità questa. Non è il legare due cose che sembrerebbero, senza il nostro intervento mentale, totalmente separate. Un mondo astratto, il mondo dei suoni, il mondo del linguaggio è un mondo astratto. Voi mi capite perché avete introiettato, ormai da un bel po' di tempo pure voi, queste regole generali per cui sapete le parole dentro una certa lingua. Se io vado in Cina non capisco un cazzo di quello che dicono i cinesi perché non ho imparato, non ho introiettato la lingua. Se vado in Francia e in Inghilterra qualcosa di più capisco, se vado in Germania o in Spagna intermedio, insomma, perché so poche lingue. Chi ne sa 10, 20, se la cava a me, insomma, evidentemente. Ma questo è un, come dire, livello totalmente... Che cosa c'ha di immediatamente, che lo lega immediatamente con le mie esperienze? Nulla. Neanche con le esperienze mentali, no? È il risultato di una decisione, di una dimensione astratta, che però interpreta, rappresenta media, mezzo di comunicazione, medium, media, la mia esperienza concreta. Quindi questo corso, mi dice per voi, sarà un corso prevalentemente di filosofia, che parlerà di linguaggio, quindi di filosofia del linguaggio. La filosofia del linguaggio è molto utile oggi per qualsiasi artista, nessun artista, nessuna persona, artista lo dico in senso molto generico, molto vago, nessuna persona che abbia a che fare col mondo della comunicazione e dell'espressione oggi se la può cavare può, insomma, se la può cavare bene davvero, cioè bene vuol dire non diventare ricco, io non, quella è una roba che non so bene come si, come si possa, come si possa realizzare. E però non realizzerà dei lavori, delle cose soddisfacenti, se non ha un minimo di consapevolezza linguistica degli strumenti che usa, anche perché il linguaggio ha finito poi per, e non da oggi, da sempre, per influire e per strutturare in qualche modo, per influirsi, per influenzare non soltanto il mondo, chiamiamolo diciamo la basilarità dell'esperienza, eh? Il linguaggio ci dice, noi non avremmo esperienza come l'abbiamo se non avessimo lo strumento linguistico, no? Ma si inserisce anche in altri strumenti, in altre modalità, in altri ambiti di rappresentazioni, che sono quello artistico, nel senso delle arti visive, quello musicale, due ambiti in cui il linguaggio non c'entra direttamente, non è direttamente implicato, ma che sarebbe impossibile per noi fruire se non avessimo il linguaggio. Dipingere il bisonte di Lascaux, guardare il bisonte di Lascaux e capire che si tratta di un bisonte è impossibile per un animale che non sia linguistico. I vostri gatti non sanno leggere le fotografie, non perché sono stupidi, perché non sono animali linguistici, perché non hanno, non possono guardare la televisione, perché per guardare addirittura esponenti di culture diverse dalla nostra, che non sono culture alfabetiche, culture senza la scrittura, hanno estrema difficoltà a leggere i quadri, i dipinti e le foto della tradizione figurativa. Per esempio, questo è accaduto, ci sono molte prove, con molti nativi australiani. Vuol dire che sono più stupidi? No, vuol dire semplicemente che non hanno gli strumenti culturali tali da fargli riconoscere in quella sequenza, in quell'accrocchio di linee piane, di chiari e di scuri o di campi cromatici su un quadro o su una fotografia, una rappresentazione del viso umano, del corpo umano, di un paesaggio, eccetera, eccetera. Quindi il linguaggio, in realtà, in qualche modo, e cercheremo di capire, il tema del corso sarà principalmente questo, cioè quello di capire il rapporto che c'è, il rapporto di somiglianza, di opposizione, di analogia e di differenza che c'è tra la parola, linguaggio e l'immagine. Sono due strumenti, due ambiti per certi versi totalmente diversi, opposti per come funzionano da un certo punto di vista, e però l'uno sarebbe impossibile senza l'altro. Sicuramente l'immagine sarebbe impossibile nel nostro senso da costruire, da interpretare senza la parola, ma probabilmente se ci pensassimo un po' forse vedremo che anche la parola forse ha qualche relazione di tipo genetico con l'immagine. Adesso non voglio. Va bene, la prossima volta parleremo dei libri di testo, che è una situazione un po' complicata. Direi che siccome mi sembra che ho fatto quasi tutto il mio orario, sì, quasi tutto, ho fatto un quarto d'ora, possiamo benissimo fare due ore sole o poco più mercoledì prossimo, dalla volta prossima ci scattiamo, grosso modo, insomma, l'idea è quella di fare due ore e mezzo sia lunedì che il mercoledì. Grazie.